l'amor. Noi siamo tutto il mondo e qualcosa di noi è l'istinto che fa unire gli amori incuranti del resto. E sento passare le tue dita leggere che poni su di me con finta ingenuità. Adesso che noi ci perdiamo ad ascoltar lunghi silenzi dopo l'amor, noi non siamo più soli. Dopo l'amor tu respiri con me e restiamo così solo noi a sognar felici di nulla, io e te lo stesso sorriso dopo l'amor. Siamo un essere solo, dopo l'amor, io ti vedo così, ogni cosa ha un perché. Dopo l'amor, per continuare.